Radio 24 Reportage. Informazioni e digitalizzazione spingono le merci lungo i corridoi doganali veloci. La sfida per abbattere la burocrazia e tornare competitivi. Di Andrea Ferro. Fosse la classifica di un campionato di calcio, saremmo in piena zona retrocessione, 25esimi davanti solo a Grecia, Polonia e Romania. A stilare le pagelle è l'Unione Europea, che questa volta ha valutato la gestione e la politica dei trasporti e delle infrastrutture dei singoli paesi, strutturando il giudizio sulla base di alcuni precisi elementi presi in considerazione. Ad abbassare il voto complessivo dell'Italia, relegandola agli ultimi posti della graduatoria, è stato il parametro relativo ai tempi medi che occorrono per completare le operazioni di import-export via mare. Addirittura ci vogliono 18 giorni, praticamente il triplo di quanto avviene in Olanda. Stando a questo verdetto, in Europa nessuno fa peggio di noi. Siamo pure il paese dove ogni cittadino trascorre quasi 39 ore all'anno in coda per colpa delle strade congestionate. La media europea è di 31 ore. Insomma, in un modo o nell'altro, per troppo tempo siamo rimasti lenti, vecchiotti, disconnessi, ancorati a liturgie organizzative datate quanto le reti infrastrutturali, impantanate nell'assenza di investimenti inseriti all'interno di un disegno strategico. Il panorama è questo e la foto che lo ritrae non può che essere ingrigita dall'eloquenza dei dati e dei numeri, a prescindere da chi li somministri. Ma ora all'orizzonte si intravede un po' di luce. A rischiarare la prospettiva è la consapevolezza che solo un sistema logistico più efficiente potrà restituire piena competitività ai porti italiani, riflettendo i suoi effetti sull'economia del paese, quella fatta di numeri e quella reale, fatta di persone e di speranze. La strada imboccata è a suo modo immateriale, laddove tutto intorno invece è fisico, solido, pesante, ingombrante: navi, merci, container, strade, ferrovie. La sfida passa lungo i corridoi che si allungano partendo da una base unica, la piattaforma logistica nazionale digitale, e poi trovano linfa e vita propria. Corridoi veloci, fast corridor, corridoi attraverso i quali sono le informazioni a correre spedite, a circuitare efficienza, ad abbattere recinti, barriere, resistenze, burocrazia e quindi costi. Insomma, una sfida innanzitutto culturale, oltre che di metodo e di sostanza, comunque irrinunciabile. Rodolfo De Dominicis è il presidente di UIRNET, il soggetto che per conto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha avviato i primi passi della piattaforma logistica nazionale. È stata fortemente voluta da vari governi e che anche questo governo sta spingendo al punto da metterla in maniera predominante alle azioni 6.1 e 6.4 del piano della logistica e della portualità. Per cui esiste questo grande impegno per cercare di fare un effetto di sostituzione. Non si riescono a realizzare velocemente le infrastrutture, almeno usiamo al meglio quello che abbiamo. La strada tracciata è assolutamente ineludibile. Questa piattaforma sarà il pezzo, diciamo, del sistema digitale nazionale che deve cercare di far parlare tutti gli altri pezzi che nel tempo in maniera egregia sono stati realizzati dalle varie amministrazioni, perché il problema è che ogni amministrazione ha realizzato la sua indipendentemente dalle altre. Piattaforme che non parlano tra loro. Piattaforme che non parlano fra loro. Ora è arrivato il momento di superare questa impasse, per un motivo semplice: perché abbiamo necessità di avere uno stream di informazioni strutturate che vadano in questo cruscotto del ministro necessario per prendere le decisioni anche infrastrutturali pesanti nel tempo, e per altra parte invece andare a determinare quei dati che sono imprescindibili e ineludibili a far sì che il sistema mercato, a tale che questo mercato possa diventare più efficiente e io aggiungo anche più sicuro, che abbiamo un grosso problema di security in questo momento da gestire in questo paese. Accade oggi che nelle operazioni di importazione e quindi di smistamento di un container o di una merce fino al luogo di destinazione intervengono anche 20 amministrazioni diverse, ognuna con un frammento di controllo, ognuna, come abbiamo sentito, con un suo linguaggio. Questo succede in un mondo nel quale chi produce, piccolo o grande che sia, corre, non può fermarsi, usa software che si approvvigionano dai big data, sfrutta l'internet delle cose, si organizza sul cloud, determina la sua strategia attraverso la business intelligence. L'ora di spazzare l'immobilismo arcaico è scoccata e anche gli enti regolatori di questo flusso di merci che valicano ogni tipo di confine si attrezzano addirittura per intraprendenza tendono a porsi all'avanguardia a livello comunitario. Teresa Alvaro è il direttore centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle Dogane. La nostra strategia si basa su questi semplici concetti. Primo, chi produce le merci e le aziende sono le aziende che esportano, poi si avvalgono di intermediari, di servizi, ma anche queste sono aziende che stanno in questo contesto. Quindi il paradigma che ci guida è quello che noi abbiamo molto sinteticamente definito il paradigma once. Noi dobbiamo arrivare a farci inviare dalle aziende una sola volta le informazioni per arrivare poi a un controllo unico. Questo è il paradigma once. L'altro paradigma che diciamo ci contraddistingue come apripista a livello europeo è quello di utilizzare l'internet delle cose, che noi abbiamo ribattezzato internet delle merci. Quindi fino adesso come avvenivano gli adempimenti doganali? Prima su carta, poi con messaggi elettronici. Noi ci proiettiamo già nella dogana 4.0, facciamo parlare direttamente le merci. In questo modo noi riusciamo a esercitare dei controlli molto più efficaci, dando un valore aggiunto alle aziende nell'esercitare il controllo. Insomma, per superare i difetti di comunicazione tra le amministrazioni ci pensano le merci a parlare. Ed eccoci al corridoio veloce, esempio concreto di come possa tradursi nei fatti questa grande rivoluzione, avviata un po' in sordina nel 2008 tra Genova e Rivalta Scrivia, un'esperienza pionieristica rimasta a lungo un caso isolato. Tra aprile ed ottobre sono stati attivati 9 corridoi, 7 stradali tra i porti tirrenici Piacenza e Prato e 2 ferroviari sempre tra la Liguria e la pianura padana. A breve ne potranno nascere altri. La piattaforma logistica nazionale digitale è attrezzata e pronta e, come abbiamo sentito, costituisce uno strumento fondamentale per accompagnare la riforma dei porti che con l'inizio del 2016 diventerà operativa. Un fast corridor funziona così. Prende in custodia le merci nel momento dello sbarco e le inoltra al nodo logistico di destinazione senza nessun'altra formalità che non sia uno scambio elettronico di dati tra tutti i partecipanti alla catena, quindi il terminalista che si occupa dello sbarco, l'importatore, il vettore, quindi il camionista collegato alla piattaforma logistica nazionale. In questo modo il container viene monitorato fisicamente lungo il percorso e tutti gli adempimenti doganali sono sostituiti da questo monitoraggio fisico del mezzo di trasporto. Il primo corridoio veloce su gomma è stato attivato ad aprile tra il porto della Spezia, uno degli scali all'avanguardia in termini di efficienza operativa, e la base logistica di IKEA a Piacenza. Il presidente dell'autorità portuale della Spezia, Lorenzo Forcieri. Sono in corso da parte dell'Unione Europea tutta una serie di modificazioni nelle procedure doganali che in qualche modo, anche utilizzando le richieste in tal senso di IKEA, in qualche modo abbiamo anticipato non soltanto noi ma anche il porto di Genova, e abbiamo realizzato un fast corridor, un corridoio doganale direttamente con la loro sede di Piacenza, per cui tutte le procedure avvengono intanto a livello informatico e poi avvengono direttamente nella loro sede di Piacenza anziché nell'ingresso del porto. Questo crea qualche problema con le tradizionali attività degli spedizionieri doganali, che naturalmente in qualche modo o si organizzano in maniera più moderna oppure vedono in qualche modo messo in discussione il loro ruolo, però è una condizione fondamentale per migliorare l'efficienza e la competitività del porto e quindi per dare un contributo al miglioramento dell'efficienza e della competitività dell'intero nostro sistema industriale, direi anche economico. Digitalizzare, velocizzare, sburocratizzare, correre al ritmo del tempo in un mondo che chiede organizzazione ed elasticità. Seguendo i tracciati di questi corridoi materiali, le categorie coinvolte nella catena logistica trovano nuovi impulsi, cambiano i ritmi. Così la pensano gli autotrasportatori, soggetti centrali nello sviluppo del sistema dei fast corridor su gomma. Amedeo Genedani è il presidente di Unatras e Confartigianato Trasporti. Per il mondo dell'autotrasporto questi corridoi veloci rappresentano un'opportunità sicuramente, una organizzazione di quello che è la filiera delle container che arrivi in porto. Tu riesci a caricare in porto in tempi veloci e stretti i container e portarli logicamente a destinazione presso le aziende che ricevono questi container, monitorizzati, avvisati se ci sono dei problemi lungo il tragitto, eccetera, eccetera, eccetera. A mio avviso, tramite questi sistemi informatici, sicuramente avranno un valore aggiunto. In pratica si va a portare a redigere in pratica una decongestione delle banchine del porto, aumenta sicuramente la recettività dei porti e sicuramente ridurre anche i costi per il committente finale. Ma quali sono i vantaggi pratici per le imprese che derivano dall'utilizzo dei corridoi veloci? Perché conviene sfruttare questa chance? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Greco, direttore commerciale di HP Enterprise Services, uno degli artefici della piattaforma logistica nazionale. Tutto viaggia, l'informazione viaggia digitale, non c'è più carta che viaggia, problemi di smarrimento di documenti, niente più. Il secondo beneficio che è quindi un processo che costa mediamente meno di prima, ma soprattutto due fenomeni. Il primo, la certezza dei tempi, che è una cosa che per un'industria privata è fondamentale. Non è soltanto importante che una merce ci metta poco. Bisogna sapere quanto ci mette ad arrivare un container dal porto al sito di destinazione e soprattutto avere la possibilità di non dipendere più da, diciamo, fattori umani che possono degradare la qualità di questo tipo di servizi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.